Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, sono le 17.09, fra una manciata di secondi, eccoci di nuovo insieme per Focus Economia per il racconto della giornata economico-finanziaria. Giornata che ancora una volta, per quello che riguarda il dibattito economico italiano, si è assolutamente concentrata sulle vicende di Banca Monte dei Paschi. Oggi c'era grande attesa per questa assemblea straordinaria degli azionisti che si è conclusa alle 16.28, era iniziata questa mattina presto, subito con delle esternazioni piuttosto forti di Beppe Grillo, ma qua chiudo con i riferimenti ai personaggi politici che hanno partecipato a questa iniziativa. Ci interessano di più gli aspetti finanziari, le dichiarazioni di Alessandro Profumo, il presidente della banca, di Fabrizio Viola, l'amministratore delegato, che in qualche maniera hanno anche preso le distanze con il management precedente, responsabile anche di questo clamoroso buco di bilancio venuto fuori negli ultimi giorni, venuto fuori per la verità da un bel po' più di tempo, ma di cui si sta clamorosamente parlando soprattutto in queste ultime giornate. E a questo punto tutti siamo un po' anche d'accordo nel dire, ma insomma, questa vicenda viene così enfatizzata alla luce del fatto che naturalmente viene buttata nel bel mezzo di questa durissima campagna elettorale in corso, e quindi probabilmente qualcuno ha anche un po' enfatizzato tutti gli aspetti negativi, che sono quasi tutti negativi, di questa vicenda, per chiaramente anche additare qualche precisa responsabilità politica. C'è da dire che oggi molti hanno fondamentalmente anche rilevato questo aspetto, l'aspetto di una vigilanza che a quanto pare era piuttosto consapevole delle vicende interne a Monte dei Paschi, che in qualche maniera, appunto, da almeno 2 anni Banca d'Italia, con tutte le ispezioni che sono state fatte a Siena, aveva più o meno capito la complessità e la natura molto ardita di determinate operazioni finanziarie fatte, anche perché anche questa banca in questi ultimi anni si è dovuta difendere dall'impeto della crisi finanziaria internazionale, ma comunque è rimasto un po' tutto lì, non è venuto fuori, anche se poi anche molti giornali, questa mattina l'ha fatto il Sole 24 Ore, si soffermano sul fatto che, anche se in maniera molto discreta, la moral suasion per far sì che i vecchi manager del gruppo Mussari e Vigna, appunto, si facessero da parte, era stata appunto un'azione intrapresa da Banca d'Italia, non resa nota all'esterno con grande clamore, ma in ogni caso questi manager sono stati accompagnati fuori dalla porta di Monte dei Paschi, e poi in ogni caso comunque le operazioni sono venute fuori. C'è adesso già chi parla di forse un buco di bilancio più importante di quello che è saltato fuori recentemente, ridescrivendo le operazioni Alexandria, Santorini, Nota Italia ed altro. Non si sa se questo sia vero o meno. I manager attuali, Profumo e Viola, questa mattina hanno detto che non c'è niente di tutto questo, hanno fatto sapere quanti sono i crediti deteriorati che sta gestendo la banca in questo momento, hanno fatto sapere che anche loro hanno tutta l'intenzione di intraprendere delle azioni di responsabilità verso il management precedente. Stamattina, tra le altre cose, Alessandro Profumo ha detto, rivolto agli azionisti presenti all'assemblea: sono stufo di continuare a sentir ripetere, vogliamo che voi agiate, lo faremo. Ma vi racconteremo tutto quello che è successo questa mattina a Siena nella seconda parte di Focus Economia, a partire dalle 18. In tutto questo chiaramente c'è anche, l'abbiamo raccolte queste testimonianze stamattina a Salvadanaio, la grande preoccupazione che speriamo si possa andare a ridimensionare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, di risparmiatori, di correntisti, di sottoscrittori di prodotti di investimento con Monte dei Paschi. Sicuramente per gli azionisti oggi una bella boccata d'ossigeno, perché dopo aver perso il 20% negli ultimi 3 giorni, oggi Banca Monte dei Paschi ha guadagnato il 10%, per cui una bella azione di recupero. Il titolo chiude, sta chiudendo la giornata, mancano ancora una ventina di minuti alla chiusura della giornata finanziaria, sta navigando a 25,73 euro circa, mentre la borsa è complessivamente negativa, perde lo 0,20%, le altre piazze finanziarie sono invece tutte quante positive. Lo è anche Wall Street in questo momento, sì, Dow Jones è più 0,25%. Ritorneremo a Davos oggi, naturalmente in Svizzera, per il World Economic Forum. Ci sono le dichiarazioni di Christine Lagarde, di Mario Draghi, numero uno della Banca Centrale Europea, e c'è oggi forse la necessità di fare un approfondimento su questo allarme lanciato ieri da Angela Merkel, per la verità formalizzato dal palco di Davos, ma un tema che sta facendo discutere le principali economie del mondo da ormai diverse settimane, da almeno l'inizio di gennaio, questa guerra nel mondo valutario che sarebbe stata scatenata dalle iniziative per gestire appunto la crisi interna da parte del Giappone. Ne parleremo diffusamente, anche perché per i non addetti ai lavori e per la verità anche per me è un tema decisamente complicato. In ogni caso, questa corsa a svalutare le monete nazionali da parte del Giappone, ma anche da parte degli Stati Uniti, stanno appunto ormai animando il dibattito finanziario in maniera sempre più intensa giorno dopo giorno. Parleremo poi chiaramente della giornata di borsa, parleremo anche di arte se avremo tempo, perché inizia Arte Fiera a Bologna, quindi magari ci prenderemo anche un po' di pausa parlando di un tema un pochino più leggero, ma che appassiona anche molti ascoltatori, così anche da alleggerire un po' la pesantezza di tanti altri argomenti che invece a volte ci preoccupano un po' di più. Avete come sempre l'opportunità di mandarci dei messaggi, di scriverci alle 349-238-6666. Adesso invece possiamo cominciare con le altre notizie in breve della giornata. Allora, voglio tranquillizzare anche gli ascoltatori. Sebastiano Barisoni, naturalmente gli auguriamo la pronta guarigione, se si è allontanato non per fare un dispetto a voi e mettermi qua così tanto per indispettirvi, ma perché chiaramente l'influenza colpisce anche noi. Abbiate pazienza, tornerà alle più presto, speriamo già lunedì prossimo. Intanto andiamo alle notizie in breve, vi dicevo, cominciando con le materie prime. L'oro in calo oggi a 1663,85 dollari l'oncia, il petrolio oggi a New York apertura in rialzo a 96,41 dollari al barile. Allora, il tema che approfondiremo tra poco, ma intanto ve lo anticipo già, si stanno intensificando sempre di più i timori per una prossima guerra delle valute, delle monete, delle divise internazionali, una guerra innescata appunto dalla decisione del Giappone di avviare delle politiche monetarie che possano indebolire lo yen nei confronti delle altre valute, favorendo così l'export di prodotti nipponici. Da tempo la banca centrale americana favorisce con le sue mosse anche la debolezza del dollaro, favorendo così il Made in USA da luglio, quando la Banca Centrale Europea ha fatto muro a difesa dell'integrità dell'euro. La divisa unica si è apprezzata del 25% sullo yen e del 10% sul dollaro. Basti vedere quello che succede oggi, l'euro è balzato a 1,3464 sul biglietto verde. Ieri Angela Merkel a Davos ha affermato: devo ammettere che in questo momento il Giappone crea una certa preoccupazione. È stato un messaggio soft che è stato indirizzato anche a Washington, ma anche a Londra, il cui denaro facile ha in effetti alimentato la grande bolla immobiliare e creditizia. Se tutte le banche centrali si fossero comportate come la BCE, ha detto la Merkel, avremmo meno problemi nel mondo. Analoghi timori erano stati espressi nei giorni scorsi dal presidente della Bundesbank, Weidmann. Sempre da Davos si è intanto saputo che anche la banca centrale svizzera ha intenzione di muoversi per indebolire ulteriormente il franco, proseguendo una politica avviata nel settembre del 2011 con l'obiettivo di mantenere un cambio euro-franco intorno a 1,20. E intanto c'è anche una considerazione su tutto questo argomento da parte del ministro dell'economia francese Moscovici. Certamente il livello attuale dell'euro è molto alto, ha detto, e ciò crea dei problemi e questo appunto è un peccato, dice lui, perché sta tornando la fiducia nell'eurozona e del resto abbiamo situazioni multilaterali come il G8 e il G20, io ci credo ancora. Oggi intanto abbiamo avuto un dato che è arrivato dalla Gran Bretagna: il prodotto interno lordo del quarto trimestre 2012 ha segnato una contrazione dello 0,3% rispetto al mese precedente. Il dato è peggiore delle attese del mercato, che si attendevano un ribasso meno accentuato, meno 0,1%, mentre su base annua il dato sul PIL risulta invariato. Cosa è successo oggi a Monte dei Paschi? Allora, vi dicevo, chiusura non ancora definitiva per il titolo, con un rialzo a due cifre, quasi l'11%. Gli scambi sono stati assolutamente vorticosi nel giorno dell'assemblea degli azionisti. A metà pomeriggio era stato scambiato intorno al 10% del capitale, per cui immaginiamo che proseguendo la giornata questa percentuale si sia alzata ancora di più. C'è stato il via libera dall'assemblea degli azionisti agli aiuti di Stato, cosiddetti Monti Bond da 3 miliardi e 900 milioni di euro. Oltre il 98% dei presenti in sala ha votato in favore. La delibera è arrivata dopo oltre 7 ore di assemblea, nel corso della quale hanno partecipato circa 370 soci in rappresentanza di 942 aventi diritto, pari al 53,77% del capitale della banca. La proposta di aumento di capitale è stata approvata dal 98,75% dei presenti, che corrispondono al 52,11% del capitale. L'Assemblea ha attribuito al Consiglio di amministrazione la delega a procedere con la ricapitalizzazione della banca, che passerà attraverso appunto l'emissione dei Monti Bond. Ministro Grilli, cosa ha detto oggi su questo caso dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni? Sul caso Montepaschi si tratta di fare la massima chiarezza anche dal punto di vista penale. No, scusate, questo l'ha detto Mario Monti. Ho piena e totale fiducia nella Banca d'Italia e anche nei confronti del governatore Visco, ha aggiunto, così come ce l'ho nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze. E appunto, dicevo, anche delle dichiarazioni di Grilli di oggi, che ha ribadito la sua assoluta fiducia e stima nei confronti della Banca d'Italia. Intanto si è appreso oggi, ieri lo avevamo anticipato ma non avevamo la data certa, che sarà la giornata di martedì prossimo a partire dalle 15, la giornata in cui il ministro dell'Economia Grilli relazionerà in Parlamento sulla situazione appunto di Monte dei Paschi. Come sapete, in questi giorni è stata tirata in ballo più volte anche la vigilanza di Banca Italia intorno a questa vicenda, e allora oggi c'è stata una presa di posizione abbastanza chiara da parte del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervistato anche dal Sole 24 Ore. Visco ha detto: la Banca d'Italia fa vigilanza prudenziale e non lotta al crimine. E ancora, tra l'altro, Visco ha parlato anche da Davos, Banca d'Italia, non prevede alcuna azione immediata su Monte dei Paschi. Via Nazionale ha precisato appunto di aver avviato questo filone di indagine in collaborazione con la magistratura attraverso accertamenti di carattere tecnico che sono molto complessi. Qualcuna delle dichiarazioni emerse oggi dall'assemblea degli azionisti: mi riservo di tutelare la nostra reputazione ed onorabilità nelle sedi competenti se vengono espressi giudizi sulle persone, lo ha detto il presidente di Monte Paschi, l'attuale presidente è Alessandro Profumo, e quindi oggi, di fronte ad alcuni azionisti che avevano preso il microfono e fatto dei commenti anche piuttosto duri rispetto alla precedente dirigenza, prego, ha detto Profumo, di prestare attenzione a ciò che si dice, nessuno può pensare di venire qua a dire certe cose, magari è ripreso in un momento di visibilità, però ha anche detto: faremo di tutto per rendervi contenti, gli azionisti vogliono una banca che sia tale nel panorama nazionale, una banca seria, naturalmente una banca che sia banca, noi non saremo il terminale di nessuno, riferendosi alle attività di aiuto alle aziende del territorio fatte nelle passate gestioni, ma solo di voi azionisti. Il Monte dei Paschi ha rinnovato completamente la direzione finanziaria lo scorso giugno, e quello è stato il presupposto per aprire i cassetti, lo ha detto l'amministratore delegato Fabrizio Viola rispondendo alle domande degli azionisti in assemblea, perché nei giorni scorsi forse un pochino ci abbiamo anche scherzato pure noi, appunto ricordando come le complesse operazioni Alexandria e Santorini fossero state occultate agli attuali vertici e erano state appunto scoperte solo di recente, proprio perché tutta questa documentazione era custodita in una cassaforte di Rocca Salimbeni. Viola ha detto: non ci sono altre casseforti da aprire e siamo pronti ad azione di responsabilità. Invece è quello che ha detto Gabriello Mancini, il presidente della Fondazione Monte Paschi, e Mancini ha anche precisato: la Fondazione è determinata ad intraprendere tutte le eventuali azioni, compresa quella di responsabilità che la legge le riserva, a tutela degli interessi propri e di tutti gli azionisti. Per adesso Monte dei Paschi la lasciamo qui, ci ritorneremo nella seconda parte di Focus Economia. Andiamo un po' ad un altro bel tema che irrita non poco i nostri ascoltatori, il redditometro. Ogni volta che l'Agenzia delle Entrate cerca di fare passi avanti, il partito degli evasori frappone ostacoli, lo ha detto il direttore delle Entrate Attilio Befera parlando a Firenze ad un convegno della CNA. Oggi la Toscana è veramente il centro del mondo, insieme a questo convegno, a parte il terremoto del pomeriggio a Lucca e poi l'assemblea degli azionisti a Monte dei Paschi. Befera ha detto: non facciamo controlli di massa, l'operazione redditometro è limitata all'evasione sfacciata, per cui speriamo che questo aspetto abbia contribuito a rassicurare un po' tutti. Dal mondo del lavoro, parlare del lavoro è parlare del pane, il lavoro è l'unica vera condizione per creare ricchezza nel nostro paese e nel mondo, è la condizione per uscire dalla crisi, così leader della CGIL Susanna Camusso, aprendo la conferenza di programma con la presentazione del piano del lavoro. Creare e difendere lavoro è l'unica premessa credibile di una proposta per uscire dalla crisi. Sentiamo questo passaggio del suo intervento oggi a Roma. Nel tracciare il quadro di dove siamo, abbiamo detto, lo ha detto tutto il mondo, gli economisti pentiti e anche quelli non, che nulla sarà più come prima. Questo può aiutare ad uscire dalla retorica delle tante ricette che abbiamo sentito ripetere in questi anni. Quella delle esportazioni che risolveranno tutto, del mercato del lavoro e delle pensioni lette come rigidità da cancellare, o ancora quella che il pubblico deve ridursi, che il piccolo è bello, che l'impresa è centrale, autosufficiente, ovvero autoassolta. Oppure, quando ci si lancia nel ragionare dell'industria, che non è il futuro, che può essere sostituita nella fantasia di qualcuno da un rigoglioso terziario senza industria, dai consumi alla domenica o dalla visione di sterminate e incontaminate mete turistiche. Le abbiamo sentite tutte tante volte, le abbiamo viste praticare, ma soprattutto possiamo dire che le abbiamo contrastate. E non si può riproporre ad un paese sempre più in difficoltà, sfiduciato, che non vede luce all'orizzonte, l'idea che il lavoro, la condizione di lavoratori e pensionati siano sempre la sola variabile da comprimere. Ancora un paio di notizie in breve. I lavoratori in esubero nella pubblica amministrazione, per quanto riguarda la prima platea considerata, 50 amministrazioni con 118.571 persone nella dotazione organica, sono appunto i lavoratori in esubero 7.416. Lo ha fatto sapere il ministro della funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, ricordando che il decreto che è stato approvato nei giorni scorsi sulla spending review, a questo punto si attende la registrazione della Corte dei Conti. I dati erano stati nella sostanza anticipati in diversi incontri con i sindacati prima di Natale. Un'ultima notizia: Amazon aprirà ad autunno un nuovo centro di distribuzione a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, ma non lontano da Milano. L'idea del braccio italiano del colosso delle vendite online, Amazon Italia Logistica, è raggiungere fino a 1.000 posti di lavoro nei primi 3 anni dall'apertura. I lavori di costruzione sono iniziati e l'edificio di circa 60.000 metri quadrati consentirà un servizio consegne più rapido. Adesso il primo approfondimento di oggi, andiamo a Davos di nuovo al 43esimo World Economic Forum. Allora, naturalmente salutiamo subito Vittorio Darold del Sole 24 Ore, inviato del quotidiano. Vittorio, buonasera anche a te. Buonasera. Ci senti? Allora, stavo cercando così un po' orientarmi intorno ai miei punti per capire quali fossero le cose più interessanti dalle quali iniziare. Direi di cominciare con Mario Draghi, che ha ricordato oggi come il 2012 sarà ricordato come l'anno di rilancio dell'euro, però ha anche ricordato, naturalmente rivolgendosi ai rappresentanti dei governi presenti appunto in Svizzera, che bisogna fare di più per la crescita economica. Ha ricordato come la ripresa ci sarà nella seconda parte dell'anno. E che cos'altro ancora, Vittorio? Ma sicuramente Draghi ha fatto un discorso soprattutto sulla vigilanza bancaria, sul fatto che secondo lui questa sta procedendo. Strano, chissà come mai ha tirato fuori proprio questo argomento. Esattamente, perché lui è ormai il dominus di questo argomento, perché come sapete la BCE è appunto incaricata di formare questo nuovo istituto, che dovrà, separato però dalla politica monetaria, così come ha voluto la Bundesbank, occuparsi della vigilanza. lui ha detto che la vigilanza bancaria è quel tassello deciso dagli stati europei per dividere il legame perverso che legava le banche al debito sovrano. Quindi le banche di alcuni paesi, soprattutto dei paesi del sud del Mediterraneo, erano in qualche modo, avevano acquistato bond degli stati a cui loro erano appunto inserite, e questo, quando è esploso il problema del debito sovrano e costringendo le banche a mettere appunto al mark to market in bilancio il valore dei bond, ha fatto crollare le loro posizioni e il valore dei loro asset. Ecco perché, dividendo in qualche modo con una vigilanza europea le banche dal destino dello Stato in cui risiedono, questo è il segnale, secondo Draghi, che questo elemento non ci sarà più. Il secondo tema della giornata è stato il Monte dei Paschi di Siena. C'è stato un grande dibattito, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha rassicurato dicendo che il sistema bancario italiano è solido e che qui si tratta naturalmente di un caso isolato di responsabilità personale che andranno perseguite, e ha anche aggiunto che la Banca d'Italia non è un poliziotto, quindi che non può controllare appunto di piani segreti o di contratti che non sono stati messi a conoscenza nemmeno del consiglio di amministrazione della banca. Sul primo aspetto, aspetta Vittorio, volevo far sentire la prima parte appunto che tu ci hai già spiegato dell'intervento di Draghi di oggi sulla necessità di rompere i legami tra banche e paesi. Sentiamolo, questo intervento di Mario Draghi. It's quite clear that the crisis has taught us something. È chiaro che la crisi ci ha insegnato qualcosa. Occorre rompere i legami tra banche e paesi. E per fare questo occorre un supervisore unico che sia indipendente dagli interessi politici delle singole autorità nazionali. Sarebbe importante anche avere un comune meccanismo di risoluzione. L'obiettivo finale sarebbe inoltre avere un sistema europeo di garanzia dei depositi, ma è un obiettivo più in là nel tempo e c'è una ragione per questo. Innanzitutto perché esistono già dei meccanismi nazionali di garanzia dei depositi che stanno funzionando molto bene nei diversi paesi. Prima di smontare questi sistemi per creare qualcos'altro, bisogna pensarci bene. In secondo luogo, un sistema europeo di garanzia dei depositi fa parte di quegli obiettivi molto ambiziosi, ma a lungo termine. Sto parlando, per esempio, della condivisione dei rischi. Occorre quindi avere altre cose pronte prima di poter veramente avere il sostegno politico. Perché per quanto riguarda la condivisione dei rischi nell'area euro, la decisione non può essere di politica monetaria, ma chiaramente solo politica. Because this is not monetary policy, it's actually political decisions. Che la finanza sia ancora, come dire, un mondo per certi versi senza controllo, lo ha riconosciuto oggi di nuovo anche il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che ha detto c'è bisogno di andare avanti sulla regolamentazione bancaria, le banche non hanno imparato la lezione della crisi. Anche George Soros c'era oggi a Davos, Vittorio Darold. Sì, esattamente. Soros ha ribadito la sua idea, cioè quella che lui vedrebbe un euro, una zona euro divisa in due, una zona euro, diciamo, dei paesi del nord più vicini appunto alla Germania, e una zona euro con un euro di serie B più debole per gli altri paesi, una cosa che però è sembrata ormai superata dagli eventi e dalla forte volontà che la politica di Bruxelles ha immesso su questa questione, che l'ha definitivamente chiusa. Invece l'intervista che ha fatto la Lagarde a France 2 ha scatenato una forte polemica, perché i banchieri centrali e il sistema finanziario che qui è rappresentato con le maggiori banche del mondo, che sono circa una cinquantina, si sono dette contrarie a questa richiesta della Lagarde, a questa accusa della Lagarde, sono rimasti molto seccati da questo intervento a gamba tesa, dicendo che loro sono pronte a dare un aiuto alle nuove regole, ma che troppa regola, la overregulation, può creare altri problemi, soprattutto la dislocazione di capitali, la fuga di capitali verso aree del sud-est asiatico, ad esempio, o altre aree dove appunto la regolamentazione è più facile. Quindi hanno rispedito al mittente queste accuse della Lagarde, e in qualche modo hanno solo ammesso che effettivamente c'è in un comunicato ufficiale una parte di opacità ancora nel settore, con l'eccezione però di James Dimon, il CEO di JP Morgan, che non ha voluto ammettere nemmeno questo aspetto della opacità e della scarsa trasparenza. Vittorio, adesso ti lasciamo, ma noi tra qualche istante andremo ad approfondire un tema che invece ci hai lanciato anche tu ieri da Davos, lanciato a sua volta da Angela Merkel, che, come ricordi, appunto punta il dito contro Tokyo, perché la cancelliera tedesca è preoccupata per la politica monetaria del Giappone, rischio molto ormai sentito tra molti operatori della finanza mondiale di una possibile guerra valutaria, perché chiaramente molti paesi, per cercare di riprendersi a livello interno, puntano sulla svalutazione della propria divisa. Insomma, ci sono state delle ripercussioni oggi sulle dichiarazioni della Merkel di ieri? Sì, ad esempio il ministro delle finanze francese Pierre Moscovici, che era in un panel appunto con il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, ha detto che un ritorno così impetuoso verso l'euro è parte del fatto che si è tornata la fiducia verso l'euro, ma ha altresì detto qui c'è qualcosa di più, c'è appunto da parte di alcuni governi e di alcune banche centrali un eccesso di politica non convenzionale, quindi non solo attraverso la riduzione dei tassi ma anche un acquisto di bond di appunto area euro in questo caso, che è considerato una manipolazione dei mercati, una manipolazione dei cambi, che riecheggia un po' l'accusa che Washington dà sempre alla Cina. Quindi la situazione, come vedete, è abbastanza complessa, nel senso che sembrava un forum che era abbastanza tranquillo, in realtà sono venuti al nodo i problemi appunto dell'export, perché tutti vogliono esportare, la mancanza, le banche centrali continuano a chiedere ai governi di proseguire con l'austerity, con le riforme strutturali che sono così impopolari, ma nello stesso tempo i banchieri non accettano le richieste fatte ufficialmente dalla Lagarde di in qualche modo venire incontro anche a una maggiore trasparenza dei loro comportamenti. Beh, meglio così, perché tante volte commentiamo anche come questi grandi meeting si risolvano in un nulla di fatto, grandi soldi che vengono spesi appunto per allestire queste grandi strutture, per ospitare i capi di Stato, di governo, personalità autorevoli del mondo della finanza, a meno se qualcuno si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa e mette sul piatto delle problematiche concrete, ben vengano. Anche Vittorio, che ne pensi, che dici? Chiusa parentesi. Sì, è stato un momento direi assolutamente molto utile, perché la questione della guerra commerciale è stato il punto fondamentale di questo forum e probabilmente se ne parlerà al G8 prossimo, perché la presidenza russa ha già detto appunto che questo è un elemento che andrà avanti, quindi qui si sta già discutendo di qualcosa che verrà discusso ulteriormente appunto al G8 e poi al G20, come richiesto anche dai tedeschi. Merkel ha da un canto posto già l'accento contro il Giappone, ma il Giappone in questi giorni ha avuto il peggior deficit della bilancia commerciale, sì, a causa del fatto che le sue tensioni con la Cina gli stanno provocando una riduzione dell'export verso i cinesi, che non comprano per nazionalismo i prodotti cinesi. E questo per esempio è un elemento che qui viene chiamato da Klaus Schwab, che è il presidente del World Economic Forum, il cosiddetto cigno nero, cioè un elemento imprevisto, quello appunto di un rinato nazionalismo, un rinato scontro tra Cina e Giappone, che ha provocato l'aumento del deficit commerciale giapponese, che a sua volta ha provocato una politica monetaria aggressiva giapponese che sta facendo appunto, creando problemi all'euro. Quindi si è parlato di una cosa molto concreta. Certo, grazie molto concreta, sì. Draghi e il resto che avete già detto. Infatti, grazie a Vittorio Darold. Stavo guardando un po' le mail che ci stanno arrivando in questa giornata, sono molto attive sul caso Monte dei Paschi, le associazioni dei consumatori. Qualcuna già sta facendo la raccolta di firme per una presunta class action, non so argomentata bene ancora in quale maniera, anche perché per chi già comincia a promettere una difesa per esempio a favore degli azionisti che hanno perso molto del valore del loro capitale investito, beh, intanto cerchiamo anche di promettere qualcosa che si possa ragionevolmente poi ottenere, perché come sapete bene, pur con tutte le iniziative giudiziarie per esempio con Parmalat, sapete bene che gli azionisti della società di Collecchio non hanno ripreso un bel nulla, qualche cosa è ritornato in tasca agli obbligazionisti. visti, ma insomma era anche, va ricordato, che dovevano dimostrare anche le modalità con cui avevano fatto la sottoscrizione di questi prodotti di investimento in banca. Insomma, le cose non sono poi così semplici, per cui direi anche di aspettare un attimo prima di promettere queste cose, e lo dico alle associazioni dei consumatori con le quali peraltro noi lavoriamo moltissimo e anche molto bene, però ecco, anche queste azioni un po' così solamente per richiamare addosso un po' di visibilità qualche volta lasciano a nostro parere il tempo che trovano. Detto questo, andiamo un po' a raccontare la giornata di borsa. Andrea Fontana, Radio Cori, Le Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Deborah. Allora, perché oggi Milano ha sofferto un po' di più delle altre piazze? Ha chiuso negativamente, mentre le altre piazze non solo hanno chiuso positivamente, ma addirittura Francoforte, probabilmente grazie all'IFO, ha chiuso addirittura con un rialzo di quasi un punto e mezzo. Che è successo? Per quanto riguarda Francoforte, lo hai spiegato tu, qualche analista si è azzardato a dire la crisi almeno sui mercati è finita, almeno in Germania, perché l'altro giorno abbiamo visto come l'indice ZEV fosse stato positivo, mentre oggi è arrivato il terzo rialzo consecutivo per l'indice IFO, che misura la fiducia delle imprese tedesche. Questo naturale ha portato una sostanziale ottimismo e un'euforia a Francoforte. Per quanto riguarda Milano invece sono state correzioni su molti titoli industriali e sui titoli del settore bancario, anche se invece il caso del giorno, il caso di questi giorni, Monte dei Paschi, oggi ha conosciuto una storia diversa, una storia di rimbalzo, però sono stati soprattutto industriali che magari avevano corso molto o qualche titolo in evidente difficoltà da tempo come Mediaset o come Telecom a pesare sull'andamento dell'indice oggi. Tra l'altro su Monte dei Paschi, a cui poi dedicheremo un approfondimento a partire dalle 18:10, oggi forse più che un rimbalzo di natura tecnica dopo lo strappo violento a ribasso degli ultimi tre giorni, a movimentare verso l'alto i titoli ci sono state queste indiscrezioni che erano un po' circolate stamattina durante l'assemblea di possibili nuovi soci in arrivo, però Profumo e Viola mi pare che abbiano smentito drasticamente, Andrea. Sì, presidente Profumo ha detto che rimarrà deluso chi spera nell'arrivo di un socio pronto a sottoscrivere aumenti di capitale o comunque a investire nel gruppo. Diciamo che per quanto riguarda il Monte dei Paschi le posizioni degli operatori sono diciamo così divise in due, tra chi considera sostanzialmente il valore dell'equity, cioè il capitale azionario, prossimo allo zero, e chi invece scommette, come tu dicevi, sull'arrivo di nuovi soci, di un salvataggio della banca con l'arrivo di un cavaliere bianco. In questo intermedio ci sono invece le valutazioni degli analisti, che vedono una valutazione attuale alla luce dei fatti di questi giorni, alla luce del ribasso degli ultimi giorni, tra lo 0,25 e lo 0,27 euro per azione. Mm-hmm. Quindi questa cifra e questa quota era stata sostanzialmente superata al ribasso ieri, oggi c'è stata una forte ricopertura, ma molti dalle sale operative pensano che raggiunto questo livello 0,26 non è detto che nei prossimi giorni non possano esserci altri scossoni. Eccoci di nuovo in diretta, allora andiamo un po' a vedere gli altri casi del giorno. STM più 4 punti, ieri nonostante i conti di Nokia, generalmente i titoli insomma si muovono in maniera abbastanza correlata, oggi il colosso italiano dei chip ha fatto piuttosto bene, Andrea Fontana. Sì, oggi una buona reazione che è stata spinta soprattutto da alcune indicazioni di case d'affare come BNP Paribas, che ha puntato decisamente sul titolo con una raccomandazione di sovrappesare l'esposizione su questo titolo, e questo ha permesso il rialzo che tu dicevi. Allora, Autogrill va benino da qualche giorno. Sì, Autogrill sta sfruttando una duplice fattore. Il primo fattore riguarda il ritorno d'attualità delle voci del progetto di spin-off, di separazione dell'attività dei duty free dal resto dell'attività del gruppo, e l'altra indicazione è invece il traffico aeroportuale negli Stati Uniti. Sono arrivate ieri indicazioni di un traffico che è rimasto sostanzialmente stabile stabile a dicembre ed è salito nel 2012, gli analisti si aspettavano invece indicazioni negative in linea con le prenotazioni e i voli sugli scali americani, e questo è stato ben accolto dal mercato e ha permesso al titolo di guadagnare l'1,6% oggi. Molto rapidamente, i due peggiori di oggi, tra i due più che sono andati peggio oggi, Pirelli -3,30, Mediaset -1,26. Andrea, per quanto riguarda Pirelli, una correzione figlia soprattutto di indicazioni meno ottimistiche che in precedenza da parte di Deutsche Bank, che consiglia più prudenza sul titolo. Per quanto riguarda Mediaset, le indicazioni sul mercato pubblicitario che sono arrivate in questi giorni, ancora oggi le indicazioni sul mercato pubblicitario di dicembre negativo, fanno pensare a un 2013 ancora molto difficile sulla raccolta pubblicitaria. Grazie ad Andrea Fontana di Radio Cuore Il Sole 24 Ore, buona serata Andrea. Buona serata. Prima di passare al prossimo tema, un paio di precisazioni, perché vedo che come spesso capita, considerazioni fatte da questo microfono vengono male interpretate e capite zero. Allora, ci sono già stati molti che si stanno offendendo perché ho fatto un paragone tra MPS e Parmalat. Potevo utilizzare un'altra società, vogliamo parlare di Alitalia, qualunque cosa, qualunque azienda, Giovanna, Francesca. Quello che io ho detto è che le associazioni dei consumatori già oggi si sono affrettate a preannunciare possibili iniziative per richiedere dei risarcimenti a vario titolo che vadano a beneficio chiaramente di tutti coloro che possono ritenersi danneggiati da quello che sta succedendo in questi giorni su Monte dei Paschi. Io ho detto che queste iniziative sono un po', secondo me, affrettate e stravaganti, perché promettono risarcimenti per esempio anche agli azionisti che hanno bruciato parte del loro valore in borsa per quello che è successo. Io dico che anche nei clamorosi casi del passato, come quelli di conclamata truffa come Parmalat, i vecchi azionisti non hanno preso nulla. Qua invece c'è una banca sana che sta continuando ad essere negoziata in borsa, che magari può ritornare a crescere, perché sono convinta che non le succederà nulla, per cui gli azionisti devono avere pazienza. Ma che un azionista di una qualunque situazione un po' strana che si verifica in borsa non riprende quasi mai nulla, non viene mai risarcita in nessun modo, e soprattutto se una società fallisce definitivamente rimane con le braghe di tela, come è successo con la vecchia Alitalia, come è successo con Parmalat ed altri casi ancora. Questo è il parallelo che ho fatto, per cui anche al dipendente, al quale io in realtà esprimo la mia solidarietà perché so che sarà preoccupato e da stamattina starà confrontandosi con molti clienti arrabbiati, che mi dice che nella banca non ci sono i latticini ma i conti delle persone, guardi che tutta la mattina l'abbiamo detto, quindi massimo rispetto, ma cerchiamo anche di capire bene quello che viene detto da questi microfoni. Che sudata! Andiamo adesso a parlare di un'altra guerra, che è quella delle valute. Pochissimi minuti di tempo, ma la chiarezza di Claudia Segre, segretario generale di Assium Forex, ci aiuterà a capire cosa sta succedendo, che diavolo di responsabilità ha il Giappone in queste preoccupazioni appunto che stanno un po' attanagliando tanti capi di Stato e di governo, in primo luogo Angela Merkel. Ieri l'ha buttata lì al forum di Davos e ha detto appunto che c'è questo atteggiamento da condannare in qualche maniera del Giappone, che sta correndo a valutare la sua moneta per rilanciare il proprio export. E insomma, io vorrei capire, Claudia Segre, buonasera, cosa c'è di male nel fare questo? Chiaramente è una provocazione, ma chiaramente è invece una tendenza, un atteggiamento che provoca poi degli squilibri commerciali che si ripercuotono in tutto il mondo. Ci spiega cosa sta facendo da inizio anno il Giappone e perché tutti sono così preoccupati? Ma prima di tutto buonasera a tutti, vedo che gli animi sono già belli caldi, quindi volevamo semplicemente calmare tutti quanti, perché questa guerra delle valute alla fine si traduce in un atteggiamento abbastanza opportunistico da parte dei giapponesi, esattamente come da parte degli americani, nella sostanza a fare massicci interventi di moneta sul mercato, e quindi invece di attivare un rigore fiscale come richiesto dalla Merkel anche quindi oltreoceano e quindi non solo in Europa, ovviamente la situazione giapponese, con un debito PIL al 230% e un deficit al 10%, richiede altri tipi di ricette. L'idea della Banca del Giappone è quella appunto di svalutare per aiutare le esportazioni, per uscire da una situazione di deflazione che ormai è storica. Il problema è che in questo momento vi sono paesi come la Cina, il Brasile e tanti altri paesi, e lo stesso euro, che stanno soffrendo di questo atteggiamento opportunistico, e questo chiaramente non aiuta, perché si parla già o di di bolla della liquidità e comunque di effetto sulla disoccupazione a livello mondiale. Quindi senz'altro sono situazioni che portate all'estremo preoccupano, ma per adesso si tratta di un atteggiamento meramente opportunistico da parte di un paese che è veramente in grave difficoltà e che non per molto potrà godere delle attività di carry trade che sono state fatte fino ad ora. Il grande accusato del momento è appunto il Giappone, ma anche gli Stati Uniti non sono da meno. No, infatti la situazione è proprio questa, cioè il fatto che l'aggressività nella mantenere una situazione di salutazione opportunistica della divisa per far riprendere la propria il proprio paese, la propria economia, crea ovviamente prima di tutto degli atteggiamenti protezionistici da parte di tutti gli altri paesi, Cina in testa, che ovviamente cercano di difendersi e di difendere questa sorta di tassa che gli tocca pagare, e dall'altra parte a livello europeo anche il ministro delle finanze francese Moscovici ha lanciato un allarme, perché un eccesso di rafforzamento anche dell'euro non è molto utile in un momento in cui l'Unione Europea sta cercando di uscire e tornare a una crescita economica positiva. Quindi senz'altro l'opportunismo di un paese crea degli effetti a livello globale che ormai non si può prescindere e che toccano un po' tutti. L'Europa non può fare proprio nulla per difendersi da tutto questo, anche le iniziative recenti della Banca Centrale Europea per arginare la terribile crisi dei debiti sovrani, in realtà a quanto pare è stata un po' anche un boomerang. Ma sì, in effetti, al di là del fatto che comunque all'interno del Giappone c'è una discussione molto forte tra Ministro delle Finanze e Banca Centrale, quindi non è neanche tranquillissima la situazione al loro interno. Il ministro delle finanze Schäuble ha puntato il dito verso questo tipo di attività e soprattutto nei limiti in cui si sta muovendo la BCE a causa del limite un po' del suo mandato, che evidentemente tutti vorrebbero molto più portato al supporto di un rafforzamento della crescita economica. Quindi senz'altro sono questi limiti che non permettono alla BCE di poter fare quello che vuole, di agire come queste banche centrali possono fare. Fra chi si è stancato di sentire le vicende Monte dei Paschi e chi invece ci chiede ma quando parlerete dell'assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi, sappiate che vi accontentiamo tra un istante. Intanto saluto Moria Longo, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che balza da uno schermo televisivo e radiofonico ad un altro, non abbiamo lo schermo, abbiamo il microfono, però adesso ci aiuterà così a raccontare, a fare la cronaca di questa lunga mattinata a Siena, per lunghissima mattinata per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Prima però ci prendiamo ancora due minuti di pausa perché parliamo del mondo dell'arte italiano che si ritrova a Bologna da oggi al 28 gennaio per la 37esima edizione di Arte Fiera, 135 gallerie ospitate con opere di oltre 1100 artisti e due mostre. Irene Privitera ha intervistato Massimo Di Carlo, presidente dell'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono i segnali lanciati dal mercato dell'arte italiana, moderna e contemporanea in questo momento. Sentiamo. I segnali sono che data la situazione economica e politica molto delicate attualmente in Italia, i segnali sono: è sparita per fortuna l'ondata speculativa, quell'ondata speculativa che nei momenti in cui la new economy aveva portato certi valori di borsa e non solo a quotazioni esasperate e l'arte aveva preso quella stessa strada, oggi siamo alla ricerca finalmente del reale contenuto e quindi sono ritornati i veri collezionisti, quelli che noi conoscevamo e che frequentavano le nostre gallerie, le nostre fiere fino alla fine degli anni 90, inizio anni 2000. Quindi questo terremoto globale planetario, secondo me, chiaramente comporta delle inevitabili ripercussioni anche nell'ambito dell'acquisto delle opere d'arte, però ha riportato nell'alveo della giustezza naturale il movimento degli scambi nell'ambito dell'arte moderna e contemporanea. La speculazione non c'è più. Nonostante appunto la contingenza, nonostante le diverse difficoltà, l'investimento nell'arte è comunque per quest'anno uno dei migliori investimenti, un investimento sicuro. Purché sia improntato al canone della qualità. Il criterio è quello, la massima qualità è quella che deve essere perseguita nella ricerca dell'opera d'arte, nell'acquisto dell'opera d'arte. Questo non può che essere fatto con l'aiuto del gallerista, quindi il gallerista è una figura centrale nel sistema dell'arte moderna e contemporanea, perché è il gallerista che forma il gusto del collezionista, è il gallerista che individua l'artista, promuove le mostre, lo invita nella propria galleria, lo porta alle fiere, gli fa le mostre, lo sovvenziona, e quindi diciamo che la figura del gallerista rivendica ora come ora questo suo ruolo che le viene naturalmente riconosciuto come proprio. Oggi ci sono dei giovani galleristi preparatissimi, noi in Italia ne abbiamo tanti, preparatissimi, che promuovono artisti giovanissimi che devono avere delle quotazioni al di là della fashion e del modaiolismo, e quindi delle quotazioni inevitabilmente ancora allettanti, ed è lì che il collezionista, quello collezionista vero, deve andare a cercare di mettere il naso, insomma. Eccoci qua, andiamo alle vicende di Monte dei Paschi. È necessario cambiare base per annunciare il nuovo argomento? No, non è necessario, ma almeno così un po' ridimensioniamo le preoccupazioni dei nostri ascoltatori che temono che oggi non ne parleremo. Qualcuno si ritiene anche un po' stressato per averne parlato tanto negli ultimi giorni, ma oggi c'era questa infuocatissima assemblea degli azionisti, presenti molti politici, quindi non ne possiamo parlare per ragioni di par condicio. Per non far torto a nessuno, parliamo invece della ciccia, di quello che si è detto. È cominciata stamattina presto alle 9, si è conclusa alle 16:28 con il via libera a larga maggioranza della delega da parte appunto dell'assemblea straordinaria da conferire appunto al consiglio di amministrazione per un eventuale aumento di capitale a garanzia della copertura dell'aiuto pubblico dei Monti Bond. Tutto molto complicato, ma in realtà è molto più semplice di quello che si legge. Moria Longo, Il Sole 24 Ore. Allora, un'operazione da 3,9 miliardi che alla fine invece costerà alla banca 4 miliardi e mezzo, perché come più volte abbiamo detto in queste sere con Fabio Pavesi, non è che lo Stato così eroga questo finanziamento, diciamolo in termini semplici, appunto questa operazione, senza far pagare nulla a Monte dei Paschi. Quindi in sostanza, quantomeno oggi, questo risultato Rocca Salimbeni lo porta a casa. Assolutamente sì, ed è anche vero che non è un regalo al Monte dei Paschi, è un'operazione di salvataggio fuori da, è ovvio che sia un'operazione di salvataggio. Lo Stato dà questi 3,9 miliardi, ha un interesse molto alto indietro, perché è il 9%, quindi è un interesse elevatissimo. Lo Stato ci incassa dei soldi da questa operazione. L'unico problema è che se tra 5 anni, quando l'operazione scade, il Monte dei Paschi è in condizioni ancora gravose e non è in grado di rimborsarle, allora in tal caso lo Stato diventa azionista del Monte dei Paschi, diventerebbe azionista di maggioranza, quindi in questo caso ci sarebbe poi una sorta di nazionalizzazione. Questo è l'unico momento in cui lo Stato potrebbe effettivamente entrare nella banca. Io ho visto che oggi in assemblea tanti evocavano la nazionalizzazione, a mio avviso sarebbe una iattura sia per lo Stato sia per la banca. Per lo Stato, perché ricordiamo che le nazionalizzazioni effettuate all'estero hanno portato l'Irlanda sull'orlo della bancarotta, hanno portato la Spagna quasi sull'orlo della bancarotta, quindi la nazionalizzazione è un aggravio per lo Stato, per i conti pubblici. Noi abbiamo già purtroppo il nostro bel debituccio pubblico bello grosso, e ci manca solo il Monte dei Paschi. Comunque un'ultima cosa sulla nazionalizzazione: ci lamentiamo tanto che la banca Monte dei Paschi è governata dalla politica, la commissione tra politica e banca, che ha creato grande problema. Se c'entra lo Stato dal mio punto di vista è politica, per certo. Cui comunque oggi Fabrizio Viola, l'amministratore delegato, ha detto che si è dato 5 anni di tempo per la restituzione di questo denaro. È un come dire un lasso di tempo che è uscito fuori oggi, o comunque era già carte? Era previsto. Monti Bond funzionava così. Tra l'altro, una parte di Monti Bond arrivati oggi servono per rimpiazzare i 3 Monti Bond erogati dal, che più o meno erano simili come meccanismo, erogati dal governo Berlusconi. Per cui appunto in più c'è una ulteriore emissione, proprio perché le condizioni del Monte dei Paschi sono ancora diciamo hanno un problema patrimoniale serio, aggravato ulteriormente da queste ultime operazioni di derivati e di operazioni particolari emerse in questi giorni, Alexandria, Santorini e Nota Italia, che hanno aggravato la necessità di patrimonio, di capitale del Monte dei Paschi. Si è discusso tanto su questo aspetto che sottolineavi adesso, venuto a galla in questi giorni, forse in realtà erano venute a galla molto tempo fa, diciamo che formalmente non si è voluta intimorire la collettività mettendole a nudo in maniera così dirompente come è successo in questi giorni, non lo sappiamo. Di fatto, comunque, nel bel mezzo della campagna elettorale, queste vicende sono state buttate in pasto anche ai partiti che adesso ne stanno approfittando. L'ultimo quarto d'ora di tempo con Maria Longo del Sole 24 Ore per raccontare di questa assemblea degli azionisti di questa mattina di Banca Monte dei Paschi. Allora, è cominciata molto presto, alle 9, naturalmente subito sono cominciate situazioni pittoresche, perché Beppe Grillo non ha mandato a dire ad Alessandro Profumo, vabbè, insomma, si sono dati anche reciprocamente dei genovesi, quindi dei tirchi, ma lasciamo perdere questi aspetti. Quello che è stato detto è che Moria Longo, anche gli attuali vertici della banca, se non ho capito male, sarebbero pronti ad esercitare qualche azione di responsabilità nei confronti del precedente management. Sì, questa è un po' la frase di rito che si dice tutte le volte che succede qualcosa, no? Qualora tutti si ritengono lesi. Sì, qualora si accertassero responsabilità, bla bla bla bla, ci avvarremo della facoltà di tutelare gli interessi della banca. Questa è la frase di rito, un po' come quando per le partite di calcio. Secondo te ci sono i presupposti per farlo? Perché il nuovo gruppo dirigenziale, insomma, possa rivalersi sul vecchio? Allo stato attuale sembra proprio di sì, nel senso che tutte queste Banca d'Italia ha detto chiaramente che gli sono stati occultati i documenti. Questo costituisce un reato, l'ostacolo all'attività di vigilanza. Poi ovviamente va provato e c'è un'inchiesta in corso, però diciamo che così a naso gli estremi ci potrebbero essere. Vabbè, la frase sibillina oggi l'ha detta anche Visco a Davos: la Banca d'Italia esercita vigilanza prudenziale, non lotta al crimine, il che lascia capire anche forse quello che pensa rispetto a quello che è successo. Un'altra cosa divertente l'ha detta Fabrizio Viola, ha detto: non ci sono altre cassaforti in Monte dei Paschi. Abbiamo scherzato molto su questo in questi giorni, perché anche ieri con Fabio Pavesi così ci immaginavamo di questo momento in cui Alessandro Profumo e Viola aprono questa cassaforte a Rocca Salimbeni, si trovano con questa documentazione che scotta, e quindi insomma auspichiamo che non ci siano effettivamente altre. Tanta preoccupazione fra i dipendenti del gruppo. Oggi abbiamo raccolto anche delle testimonianze a Salvadanaio di chi ci raccontava che in molte filiali oggi si erano create anche delle file di persone spaventate che andavano a chiedere informazioni, e noi abbiamo raccolto qualcuna di queste testimonianze nella trasmissione di questa mattina. Non solo i dipendenti preoccupati, i clienti alle filiali, anche i sottoscrittori di prodotti di investimenti, correntisti, ne abbiamo raccolta qualcuna. Nel momento in cui arrivano delle informazioni che mi dicono che Banca d'Italia dice ci hanno ingannati, a quel punto io ho detto al direttore vendi le obbligazioni, perché non mi fido. Il direttore dice ma sono notizie di stampa, guarda che le perdite che dicono erano già inserite nel bilancio dell'anno scorso. Ho detto ascolta, non mi fido. Due minuti, mi richiamano e mi dicono guarda, è disposto a venire giù la direzione della banca, sono disposti a venire il capi area a spiegarti le cose, non c'è da preoccuparsi. C'era molta fila, perché poi qua in provincia di Mantova MPS è molto forte grazie alla fusione con Banca Agricola Mantovana degli anni 90, perciò ce ne sono tantissime persone anziane che chiedevano rassicurazioni. Io la preoccupazione che ho è che al di là del mutuo, la preoccupazione che questo possa essere ceduto ad altri cambiando le condizioni, ecco. È quello che comunque io ho iscritto sulle mie quattro mura un'ipoteca di primo grado, certo, a favore di Montepaschi. Io ho comperato il 22/3/2006 azioni del Montepaschi a 4,81. Adesso chiaramente mi ritrovo con niente. Eh sì, perché il titolo, pur con il recupero di oggi di quasi il 12%, viaggia a 25 centesimi e prima di arrivare a 4,80 euro dovranno passare delle ere glaciali, immagino. Moria Longo. Beh, la banca ha 500 anni di storia, per cui abbiamo... Sì, esatto, poverina Clotilde, che così si chiamava l'ascoltatrice che ci ha chiamato questa mattina, forse ne ha un po' meno. Quest'oggi è stato detto all'assemblea, Fabrizio Viola, l'amministratore delegato, ha detto che i risultati delle analisi sui prodotti Alexandria, Santorini e Nota Italia saranno consegnati al consiglio di amministrazione entro la prima decade di febbraio. Quindi non si è ancora quantificato definitivamente il danno della stipulazione di questi derivati? Si è quantificato spannometricamente, secondo me abbastanza correttamente, nel momento in cui il Montepaschi ha chiesto 500 milioni in più di Monti Bond. Significa che considera le perdite da questi deriva, questa operazione di Santorini e Alexandria e Nota Italia, intorno ai 500 milioni di euro netti, il che significa, dato che ci sono motivi, cioè diciamo per calcoli fiscali, significa che la perdita di questi strumenti è sostanzialmente intorno ai 750 milioni di euro. questa perdita è attualmente è quantificabile proprio a ritroso dalla richiesta di Monti Bond. Poi che sia effettivamente 750 o un po' meno, come ogni tanto sostengono alcune fonti della banca, così il numero esatto sarà poi quantificato precisamente appunto in quella data, ma allo stato attuale la perdita quantificata dalla banca è questa, 750 milioni circa, che vengono coperti e a livello patrimoniale, quindi di capitale, con 500 milioni aggiuntivi di Monti Bond. E Viola ha anche aggiunto: porteremo al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per valutarne gli impatti e capire come trattare queste operazioni dal punto di vista contabile. Non sono perdite, basta? Dal punto di vista contabile dipende innanzitutto in quale anno contabile mette, quale bilancio metterlo, perché queste sono operazioni del 2000. Allora, le Santorini e Alexandra, Santorini è un'operazione del 2002, Alexandra del 2006, sono state ristrutturate, che il problema vero è nel 2009, quindi ci sono vari anni, hanno avuto incidenze in momenti, e il problema vero è il fatto che per occultare queste perdite in bilancio la vecchia gestione del Monte Paschi ha fatto una cosa semplice: ha spostato queste perdite da un prodotto derivato, cioè da un prodotto finanziario a un finanziamento, un pronti contro termine con la garanzia BTP. Sfruttando la normativa contabile, i finanziamenti pronti contro termine non devono andare a cosiddetto mark to market, cioè a mostrare le perdite in bilancio, perché sono finanziamenti, sono un'altra cosa. Solo che loro hanno un po' stressato la normativa, perché hanno fatto un finanziamento, un pronti contro termine trentennale, solitamente si fanno a trimestrali o di breve durata. In questo modo quindi hanno mascherato la perdita, perché l'hanno inglobata in un qualcosa che nel bilancio non deve essere visto, però artificiosamente, diciamo, il giochetto contabile era questo. Quindi capisco che difatti hanno due advisor, uno dei quali è PricewaterhouseCoopers, che è un revisore dei conti, proprio per capire come mettere questa perdita poi nei vari bilanci, in quali anni e come contabilizzarla. Però diciamo che questi sono problemi tecnico-contabili, ma la realtà dei fatti è che la perdita c'è, la mette da una parte all'altra, la perdita c'è. Sempre Viola, la situazione patrimoniale della banca è sotto controllo, ma l'enfasi data al caso Monte dei Paschi, che ha anche valenze di altro tipo, ha reso più difficile la gestione del momento dal punto di vista mediatico. Ha anche ragione, effettivamente. Tuteleremo la reputazione della banca. Questo è il problema più grave che si è abbattuto sull'istituto in questi giorni. Stiamo parlando della terza banca italiana, stiamo parlando di operazioni tenute segrete anche alla vigilanza, stiamo parlando di problemi di bilancio coperti, è vero, ha ragione Viola. I problemi che stanno emergendo oggi alla banca erano già evidenti nei mesi scorsi, per quello che hanno chiesto i Monti Bond per 3,9 miliardi, per cui i problemi di oggi sono già coperti, in questo ha ragione, però ci mancherebbe anche che la stampa non ne parlasse, anzi arrivano commenti e dicono la stampa doveva parlarne prima. Prima c'è stato report, c'è stato anche articoli in vari giornali, anche in periodisco. Ovviamente l'intero complessità di queste operazioni, le varie ristrutturazioni stanno emergendo questi giorni, e grazie a Dio che la stampa ne parla. Intanto Siena, Banca Monte dei Paschi, già nei giorni scorsi ha fatto sapere che non intende più finanziare per esempio il Palio delle Contrade, la locale squadra di basket. Poco fa c'è un'altra aggiunta di un'agenzia alle dichiarazioni di Viola, che in tutta questa ristrutturazione ormai ci sarà una corsa a risparmio su tutto nei prossimi anni. Viola ha fatto sapere che il 30 giugno scade la sponsorizzazione al Siena Calcio, l'intenzione è di non prolungare il contratto. Diciamo che la riorganizzazione è radicale all'interno del gruppo necessario. Questa è secondo me la cosa più triste di tutta la vicenda, cioè noi stiamo parlando di speculazioni finanziarie fatte per coprire probabilmente dei buchi che non sono solo derivanti da queste Alexandra e Santorini, ma probabilmente il vero problema è l'acquisizione di Anton Veneta a un prezzo esorbitante, no, che ha creato a cascata tutti i problemi di bilancio cercati di coprire con varie operazioni finanziarie. Ecco, tutta questa spregiudicatezza finanziaria alla fine dove si va a ripercuotere? Sul territorio, sui finanziamenti, sui dipendenti e sugli azionisti anche, che come la signora che parlavamo prima ha investito 4 euro se ne trova pochi centesimi. Questo è l'aspetto triste, perché alla fine la finanza avrà toppato i buchi per un po', ma ha creato un buco più grosso. Quindi questa è la cosa, il vero impatto della vicenda, più che politico, più che economico, più che sulla stabilità della banca, che oggettivamente sembra coperta, il vero impatto è questo. Ti chiedo un ultimo commento, poi la spremitura da parte di Focus Economia per te è terminata. Oggi queste mani forti che sono arrivate sul titolo, molte ricoperture, il titolo veramente quotava pochissimo, quindi anche magari molti piccoli oggi hanno fatto questa operazione appunto auspicando un rialzo velocissimo nel giro delle prossime settimane, un primo rialzo molto forte è arrivato oggi. Tu ci credi che non possa arrivare nessun socio extra? Alessandro Profumo lo ha assolutamente allontanato questa possibilità. Allora, che ci sia una scalata ostile ci possa essere, lo trovo un po' difficile. Primo perché la banca è blindata da un lato dalla fondazione che ne è azionista a 35 più o meno per cento, dall'altro dallo Stato che potenzialmente potrebbe diventare azionista tra qualche anno, ma potenzialmente per cui qualcuno che si imbarca in questa operazione, chi è che si compra una banca che ha tutti questi problemi? Adesso un attimino penso che anche gli investitori non è che sia la cosa più appetibile, almeno in questo momento della storia. Credo però che prima o poi si potrebbe parlare di eventuali matrimoni per la banca, accorpamenti. Ecco. Questo sì, perché il modo più solito per risolvere i problemi alla fine è qualche fusione, però non ostile. Ai giusti prezzi, speriamo, e soprattutto non ostile. Un'operazione di fusione bancaria che può creare una banca più grossa, magari italiana o non italiana, con gruppi est. Quello è possibile, non sembra allo stato dell'arte attualmente, ma potrebbe essere uno sbocco finale. Grazie Moria Longo, grazie a tutti. Da Deborah Rosciani, buona serata e buon weekend.